Allora, io l'ho fatto nel 1988 e cioè già tremo al pensiero. Non facciamo i conti, no, che è meglio, guarda, lasciamo stare. Allora, io ho portato Gabriele D'Annunzio, non chiedermi perché, ma la matematica non sa. Hai detto bene, Deborah, dalla circa promossa. Giuseppe, allora, non siamo un sogno, lei è realmente a Radio 24, certo, a cuore denari. Ta-ta! Ma questa notte ancora. Domani mattina ti chiamo, appena mi sveglio. Devo scrivere il sogno tuo, ma pensa. Kamstaga Bing, Giorgio. Kamstaga Bing Kokil. E complimenti alla trasmissione che ascolto tutti. Grazie, Giorgio. Arvazzi. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione. Mi chiamo Jess. Oggi dovrete seguire il vostro ritmo e ricordate di ascoltare il vostro corpo. Cominciamo in piedi, con le gambe divaricate e le braccia lungo i fianchi. Da qui mettetevi in ginocchio e preparatevi a rilassarvi. Allora, sì, ci rilassiamo. Prima di sederci sui banchi della scuola di risparmio, oggi ci regaliamo una lezione di yoga, o meglio, cerchiamo di capire se lo yoga fa per noi. Ne parliamo perché, come anticipato, domenica 21 giugno si celebrerà il primo International Yoga Day, un'intera giornata che è stata voluta e decretata l'anno scorso da una risoluzione ONU dedicata a questa disciplina millenaria. Ci saranno tante iniziative, scuole di yoga aperte, con lezioni di prova, sedute libere nelle piazze. Insomma, se siete interessate, come si dice, fatevi un giretto su internet. Adesso però fermatevi con noi. Se praticate yoga, siete invitati a intervenire per raccontarci se e come vi ha cambiato, o meglio, che cosa vi ha permesso di scoprire o riscoprire, se ne avete solo sentito parlare, magari un amico lo pratica e ve ne ha raccontato. Allora fermatevi, perché questa è una buona occasione per saperne di più, ma ci piacerebbe anche sapere per quali ragioni vi siete ben guardati dal fare anche solo una lezione di prova. Insomma, che cosa dello yoga non vi piace a pelle, come si dice, o per sentito dire? Parliamone. E sicuramente mi hai fatto venire in mente, Nicoletta, che un po' di yoga, di calma, meditazione profonda potrebbero certamente servire. Oggi facciamo un parallelo un po' azzardato, ma in realtà potrebbe questo atteggiamento servire agli azionisti di due banche italiane, Veneto Banca e la Banca Popolare di Vicenza, a cui dedicheremo un focus a partire dalle 11.45 nel nostro consueto spazio del giovedì, Investire Informati. Queste due banche, in particolar modo una, stanno accelerando sul piano di trasformazione in SPA, come ha chiesto a febbraio di fare il governo ad un gruppo di popolari italiane, ma non permettono contestualmente ai loro clienti di smobilizzare pacchetti azionari che questi hanno sottoscritto appunto ai loro sportelli. Che cosa significa questa situazione? Cosa comporta per gli azionisti? Molti ci stanno scrivendo denunciando questa spiacevole situazione, ma perché succede? Risponderemo a queste e ad altre domande con i nostri esperti appunto nella seconda parte della trasmissione, ma voi intanto iniziate a chiamarci anche su questo argomento all'800 24 0024. Accomodatevi, accomodiamoci, fronte rilassata e ombelico in movimento. Ci siamo, no? Parliamo di yoga. A dispetto degli anni, questa disciplina non ha perso il suo smalto e continua a essere e a venire considerata come un'occasione di benessere. C'è chi lo fa per il piacere di dedicare un po' di tempo a sé, chi per allentare le tensioni, chi per imparare a gestire le emozioni. C'è chi pratica anche yoga per allenare il corpo e migliorare le performance sportive. Insomma, i motivi possono essere infiniti. In questa puntata cercheremo di dare voce alle vostre esperienze e naturalmente chiederemo ai nostri esperti di darci le informazioni utili e di renderci competenti per scegliere quello che ci fa bene e ci aiuta a sentirci bene. In studio con noi la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico comunicatore scientifico, senologa all'Istituto Europeo di Oncologia e scrittrice. Bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non poteva naturalmente mancare con noi Daniele Belloni, insegnante di yoga allo spazio Shanti di Milano e autore di numerosi libri, ma di cui uno in particolare io vi invito a leggere: Reportage dal silenzio, l'India, lo yoga, i guru e altre cose che ci sfuggono, edito da Mimesis. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Daniele, intanto voglio dirvi che è arrivato già subito un messaggio che coinvolge tutti e due, sia Daniele Belloni che Giovanna Luini. Pratico Hatha Yoga da 4 anni, 2 volte alla settimana. Devo dire che ha modellato il mio corpo, mi sento benissimo, potrei rinunciare a tutto ma non allo yoga. Vorrei comunque fare una domanda. Soffrivo di reflusso gastroesofageo. Da qualche mese non assumo più il protettore, in quanto non ho più quella compressione sulla cassa toracica che avevo. È possibile che questa disciplina mi abbia aiutato? Daniele. Assolutamente, dal punto di vista proprio della educazione del respiro possiamo ricavare indicazioni utilissime per questo genere di problema. L'armonizzazione dell'area connessa al respiro, che è quella diaframmatica, quindi l'area dell'ombelico e dello stomaco, nel momento in cui entra nella consapevolezza del praticante, nel momento in cui il praticante riesce anche a eseguire una respirazione corretta, essere consapevole di cosa sta facendo, è assolutamente probabile che si sblocchi qualcosa a livello psicologico, si entri in contatto con delle energie che sono connesse a quell'area e si riesca comunque a superare problemi che spesso sono connessi a stati di ansia e di diciamo un'eccessiva attivazione del sistema nervoso simpatico, e quindi una attesa per qualcosa che potrebbe accadere, avvenire, che magari non ha neanche una radice nella realtà. Quindi lo yoga insegna tante cose e questo stato di calma ha riflessi positivi su molti aspetti, problemi che nella vita possiamo incontrare. Voglio leggere altri messaggi perché in un attimo ne sono arrivati tantissimi. Pazzesco, sì. E leggeremo anche quello di Flavio che ci scrive: brutta esperienza con lo yoga, insegnante non preparato mi ha rovinato la schiena, sono dovuto andare dal fisiatra. No, scusa, capita nel senso che lo yoga può anche fare male anche se praticato male. Certo, se incontriamo un insegnante che ci spinge oltre i nostri limiti, che non tiene in considerazione la nostra particolare costituzione individuale, che non è in grado di adattare una proposta perché ognuno è fatto a modo suo, arriva in un centro di yoga magari con un'esperienza, con delle problematiche particolari, lo yoga non è che è una disciplina che va adattata in tutto e per tutto, ma certamente occorre tenere presente il punto allora, di partenza. Ti voglio leggere anche il messaggio di Giulie da Pisa che ci scrive: buongiorno carissime, leggilo tu perché ti fa ridere questo. Ma perché ci sono un po' riconosciuta. È vero, è Deborino. La palestra deve essere sudore, musica e divertimento. Non posso immaginare di stare in silenzio nella stessa posizione per minuti e minuti. Io non aggiungerei che noia, perché sarebbe un pregiudizio radicale visto che non ho mai praticato yoga. Viva Aqua Combat, dice Giulie. Effettivamente sembra proprio che ci sia questa netta separazione fra due mondi, chi pratica l'una e l'altra disciplina, no? Siete e ci d'accordo? Sono anche tanti luoghi comuni sullo è yoga, vero, no? Ricordiamo, sì, che poi Daniele ce lo spiegherà, uno dice yoga ma ci sono tante diverse tecniche. Certamente. E mantenere la posizione non è, anzi lo yoga forse è una disciplina forse di più di una tonificazione tradizionale in palestra. Infatti sono rimasta incantata dalla sua risposta, che condivido in pieno, sul reflusso gastroesofageo, perché un chirurgo, e vabbè rientro anche in quella categoria, avrebbe detto: beh certo, stai su dritto e quindi ti passa il reflusso. Ma perché sono due approcci che in realtà stanno insieme. Lo yoga ha una parte fisica, che è una parte veramente importante e impegnativa, che raddrizza tante cose, e poi ha la parte, diciamo, più psichica e psicologica, neuropsicologica, che migliora tutto. La differenza tra attività fisica intensa con la musica che fa sudare e lo yoga si riflette molto anche in medicina. Adesso ne parliamo durante la trasmissione, però questa divisione apparente tra le due categorie poi si riflette su ciò che la gente vuol fare come prevenzione. 800 24 00 24. Tra l'altro, lo yoga, allora, noi oggi parliamo di yoga, facciamo una premessa, diremo tante cose dello yoga, che le ricerche sono, i ricercatori, no, si sono un po' presi la briga di andare a misurare, quantificare gli effetti psicofisici della pratica di questa disciplina. Non vogliamo dire che lo yoga è la panacea di tutti i mali, perché io mi aspetto che mi scrive, sicuramente qualcuno di voi ci scriverà, e perché allora non quest'altra cosa piuttosto, sì. Ecco, adesso noi oggi parliamo di yoga, il che non vuol dire che le altre cose, il tai chi non faccia bene, piuttosto che il pilates, ecco, iniziamo dallo yoga e poi andiamo avanti. Yoga, ce ne sono diversi tipi, ma Daniele, scusi, vogliamo però dare una definizione dello yoga, che cos'è davvero, al di là delle mode, delle semplificazioni, delle commercializzazioni e delle palestrizzazioni, perché c'è stato anche il tentativo di, no, palestrizzarlo un po', forse per venire incontro alle persone che, come Giulia, dicono, beh, per me ci vuole anche movimento, o forse potrebbe essere più facile dire che cosa non è lo yoga. Lo yoga non è semplicemente una forma di attività fisica. Lo yoga contiene tante cose, è un grande contenitore dove dentro ci sono infinite cose, può essere una filosofia, può essere un'attività dinamica anche per il corpo, sempre ovviamente accompagnata da una attitudine mentale. Se possiamo dare una definizione, lo yoga è eseguire un gesto con il corpo, una postura, un gesto con il respiro, una particolare tecnica, un gesto con la mente, una particolare concentrazione, meditazione, e nell'esecuzione di questo gesto cercare la perfetta totale integrazione del corpo, del respiro e della mente. Questo triangolo difficilissimo da mettere insieme, però ci vuole pratica. In ogni caso, e lo stiamo leggendo anche dei vostri messaggi, lo yoga piace, continua a raccogliere consensi. In linea con noi la dottoressa Isa Cecchini, direttrice del Dipartimento Ricerche sulla Salute di GFK. Buongiorno dottoressa. E buongiorno a tutti. Che cosa ci racconta? Allora, sono tante le persone che fanno yoga in Italia, sono 750.000 oggi le persone che praticano yoga con regolarità e sono triplicate nel giro degli ultimi 6-7 anni, quindi da 250.000 del 2007 sono passate a 750.000 persone. È interessante vedere il profilo, sono soprattutto donne, l'80% sono donne. La maggior parte risiede nell'area nord della nostra penisola, quindi il 60% sta al nord, e la cosa interessante è che la maggior parte sta in una fascia centrale, tra i 30 e i 54 anni, 55 anni. Quindi abbiamo un profilo di donne in una fascia di età centrale, questa è, che sono molto cresciute negli ultimi anni. Dottoressa Cecchini, ci aiuti un po' a leggere tra le righe, o meglio tra i numeri, questa crescita così importante come può essere spiegata? Non credo possa essere liquidata come una moda, molto probabilmente lo yoga soddisfa delle richieste, risponde a dei bisogni in linea con un nuovo modo di vivere, di intendere la vita, una nuova consapevolezza. Ma noi crediamo dalle nostre ricerche che ci siano due grandi motivi. Il primo motivo culturale, nel senso che quello che vediamo e quello che osserviamo è che negli ultimi anni sta crescendo una cultura della salute più evoluta, sicuramente più orientata alla prevenzione e al benessere, ma soprattutto più orientata a una concezione della salute considerata come equilibrio fra mente e corpo, quindi non solo salute fisica, non solo efficienza fisica, ma sempre più attenzione a una dimensione di equilibrio fra mente e corpo. E questo è il primo grande tema. Il secondo è molto legato al profilo di chi fa yoga. Queste donne sono donne in età centrale. Quello che stiamo osservando sempre più è che le donne sono oggi al centro di una rivoluzione che riguarda sicuramente il loro ruolo nella società, ma soprattutto riguarda quelle che sono le richieste esterne che vengono fatte alle donne oggi. Oggi le donne hanno almeno 5 ruoli, sono mamme, sono figlie che si occupano dei genitori, sono mogli, sono donne che lavorano, poi si occupano della casa e poi ogni tanto devono ricordarsi di essere donne. E quindi richieste esterne, ma soprattutto richieste interne. Io credo che le donne oggi abbiano delle grandissime aspettative verso se stesse e quindi vogliano fare tutto questo al meglio. E tutto questo poi ha un prezzo e quindi c'è un grande bisogno di recuperare un equilibrio e una situazione di benessere interiore. Grazie dottoressa Cecchini. Non le chiedo se lei pratica yoga, forse sì. l'ho vista particolarmente appassionata. Ci vorrei provare. Ecco, allora se ha tempo ascolti la nostra trasmissione, se no può naturalmente riascoltarla in podcast. Grazie alla dottoressa Isabella Cecchini. Grazie. Abbiamo Laura da Bologna. Buongiorno. Ottimo. Ciao. Eccoci qua Laura, benvenuta. Come sono contenta. Anche siete noi. Fantastiche bimbe. Grazie Laura. Allora, che cosa ci racconta? Pratica yoga, ma bisognerebbe chiedere Daniele quale tipo di yoga anche. Sì, sarebbe così utile. Sarebbe utile. Laura. Pariyama yoga. Scusami? Come? Non ho sentito, no, scusami, ho puoi detto, ripetere? Ho frequentato Pariyama yoga. Pariyama, ok, sì. Grazie. Sì. L'ho fatto per 2 anni, poi ho dovuto smettere per questioni di lavoro, ma riprenderò a settembre con l'inizio dei corsi. Brava, e che benefici hai ottenuto? Ah, fantastico. Sotto l'aspetto fisico, sicuramente, perché ero piena di dolori, io ho 45 anni, però faccio un lavoro molto impegnativo. E ero sempre molto dolorante e con yoga ho risolto praticamente tutto. Quasi una mano santa. Grazie Laura. Una mano santa. Grazie Laura. E poi Laura, anche per quanto riguarda, diciamo, il mio equilibrio, anche non soltanto fisico, psicofisico. Grazie Laura per questa chiamata. 800 24 00 24 se volete condividere le vostre esperienze con noi, ma anche per raccontarci perché proprio lo yoga non vi convince, non vi piace, non c'è qualche cosa. Una mia amica mi diceva ieri perché non si suda nello yoga. Mi piacerebbe farle fare una di quelle asana, si chiamano così, sì. Daniele, che Daniele, cosa? Che è una posizione dove devi rimanere fermo e ti senti tutti i muscoli, quelli anche quelli che ci sono sotto l'unghia dell'alluce, se ne esiste uno, esatto. che urlano. No, c'è questo ascoltatore o ascoltatrice, non so bene chi sia, ma scrive chi comincia non solo ne può fare a meno, ma scopre di non essere così forte come immaginava. Anche solo la posizione del guerriero tenuta per più di 5 minuti ti ammazza. Beh, 5 minuti sono un tempo rilevante, però a proposito di questo messaggio mi viene in mente una memoria di del passato. Io ho lavorato con un calciatore professionista che giocava in Serie B ai tempi ed era anche un mediano di questi centrocampisti super preparato. E nella posizione del guerriero gli vedevo tremare i quadricipiti e lui era sorpreso e continuava a dirmi: ma io sono allenato, come mai? Che soddisfazione. Una soddisfazione. Dottoressa Luini, abbiamo detto che lo yoga ha conquistato l'interesse della ricerca, che ha voluto proprio misurare gli effetti di questa disciplina a livello psicofisico, quindi mano alle ricerche, andiamo a leggere i dati più interessanti. La premessa l'abbiamo fatta, no? E ne aggiungiamo un'altra. Per fare bene ha bisogno di essere fatto bene, quindi nel modo e nei tempi giusti. Ma quali sono le tre aspetti vincenti dello yoga dal punto di vista medico in base alle ricerche che lei ha consultato? Ho guardato molti studi e secondo me se scomponiamo le malattie, i disturbi, ciò che può capitare a una persona in parti tutte fondamentali, scopriamo che per esempio l'infiammazione, che è una componente purtroppo fondamentale di tante patologie e devo dirlo tumori compresi, può essere influenzata da una buona pratica continuativa, e questo è importante, di yoga. Altro discorso riguarda lo stress, però non vorrei cadere nel ragionamento semplicistico. Lo stress è un problema organico, reale, che muove ormoni e neurotrasmettitori. Lo stress è una componente in tante patologie, per esempio le patologie autoimmuni, le patologie cardiovascolari. Anche qui andiamo, per esempio, a pensare ad alcuni tumori. Lo stress può non essere l'unica causa, ma è una componente fondamentale, per esempio anche nel danno cognitivo da Alzheimer. Ecco, lo yoga riesce a influenzare lo stato di stress, e anche qui voglio sottolineare che si tratta di yoga fatto bene in modo continuativo, perché l'errore spesso è quello di credere che una volta al mese valga una lezione. Esatto. E quel gestire lo stress ha dimostrato, per esempio risonanza magnetica alla mano, nel caso della risonanza cerebrale, che ci sia un miglioramento in alcune funzioni cognitive in chi ha l'Alzheimer. Altro aspetto è quello della pressione, del battito cardiaco, sì, della circolazione. Siamo bombardati da messaggi che riguardano altre patologie e a volte rischiamo di dimenticare che noi siamo vivi e funzioniamo perché abbiamo un apparato cardiovascolare. Lo yoga ha una grossa influenza sul ritmo cardiaco, sulla costanza di questo ritmo e anche su quanto le piccole arterie stanno aperte o chiuse, senza andare nella malattia. Pensiamo alle vampate di calore in menopausa. Sapete che dipendono dalla costrizione, dal riaprirsi improvviso delle piccole arterie. Ebbene, lo yoga riesce a contribuire a una migliore regolazione di queste piccole arterie, quindi diminuiscono le vampate in menopausa. Cuore e denari. Interveniamo sulle banche popolari, non su tutte le banche popolari, ma sulle banche popolari con gli attivi superiori a 8 miliardi, ho detto bene? 8 miliardi, sono 10 banche in Italia, sono 10 banche popolari, dovranno nell'arco di 18 mesi trasformarsi in superare il voto capitario e trasformarsi in società per azioni. Il Banco Popolare, UbiBanca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la Popolare di Milano, la Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Popolare di Bari e Popolare dell'Etruria e del Lazio. Tra gennaio e febbraio il governo ha disposto la trasformazione di queste banche popolari in SPA e nel corso di questo processo che è in corso hanno avuto disposizione di effettuarle in 18 mesi, sta capitando che questi istituti di credito non permettano ai loro clienti azionisti di mobilizzare i pacchetti azionari da loro sottoscritti. La questione è che queste azioni, peraltro, in questi mesi sono state pesantemente deprezzate e non per avverse condizioni di mercato, ma perché così è stato deciso dai vertici di queste banche. Quindi è una condizione molto spiacevole quella in cui si trovano migliaia di persone. Tra poco, nello spazio di Investire Informati, cercheremo di spiegarvi al meglio cosa sta succedendo. Intanto raccontateci se siete interessati da questa vicenda oppure conoscete qualcuno che si è trovato coinvolto. 800 24 00 24 il numero per rilasciarci le vostre testimonianze. Ogni asana è una perla, ma un pugno di perle non è ancora una collana. Il filo che attraversa, riunisce e ordina le asana è il soffio controllato dell'anima e della coscienza. Torniamo a parlare di yoga, ci state mandando i vostri messaggi al 349-238-6666, sarebbe bello raccoglierli, chiamateci anche all'800 24 00 24. In studio con noi abbiamo Daniele Belloni, la nostra Giovanna Luini che ci racconta, ricerche alla mano, che cosa gli studi hanno dimostrato dei benefici, hanno quantificato proprio i benefici di questa disciplina. Noi vogliamo parlarne oggi, abbiamo preso spunto dalla giornata del 21, forse non ci sarebbe stato bisogno di un'altra giornata, ma tant'è che c'è anche la giornata dello yoga. Noi vorremmo capire oggi, con l'aiuto dei nostri esperti, se lo yoga può aiutarci a stare bene e a sentirci bene. Ecco, io vorrei lavorare su queste due dimensioni, che non sono sono due cose differenti, sì. Dottoressa Luini. Sono differenti e sono complementari, perché aggiustare un corpo o mantenerlo sano, come dimostrabile dagli esami, si può fare, già è molto importante, ma non basta. Il sentirsi bene implica un equilibrio, c'è qualcosa che va oltre il nostro corpo. Questa bellissima frase che ha aperto questa parte di trasmissione potrebbe essere mutuata così: ogni organo è una perla, ma un pugno di perle non è ancora una collana. Il filo che attraversa, riunisce e ordina gli organi del corpo è il soffio controllato del benessere. Vedi, allora, noi invitando un medico, allora dalla regia le fanno un applauso se possiamo mandarlo, perché al momento è estemporaneo. Io sono stranamente ammutolita, cosa che non capita mai. Io ho trattenuto il respiro, che non mi capita spesso. Basta, allora sono felice. E io sono proprio soddisfatta, perché abbiamo degli amici che ci vengono a trovare straordinari, che si danno sempre delle gran perle con grande generosità. Daniele, adesso ti lasciamo in passo alle nostre ascoltatrici che vogliono sapere come si inizia, quale tipo di yoga scegliere, perché ci scrivono e uno mi ha ci sono tanti tipi di yoga, quanti ce ne sono? L'hatha yoga, il kundalini, infiniti come gli esseri umani. Non possiamo, alcuni fanno meglio ad alcuni c'è una corrispondenza, una relazione tra noi e il nostro tipo di disciplina? Ma direi di sì, ad esempio uno yoga che è in gran voga in questo periodo è lo Ashtanga Yoga, e l'Ashtanga Yoga io mi sentirei di consigliarlo a una persona che ha una attitudine verso un'attività molto dinamica, non ha problemi di nessun tipo a livello fisico, desidera muoversi e sudare, quindi possiamo rispondere ai nostri ascoltatori che ci hanno mandato messaggi dicendo non si suda. Beh, io direi che non è sempre vero, fai una classe di Ashtanga e poi ci sentiamo dopo. Ecco. Che già nel nome Ashtanga sembra Ashtanga. Un cartone giapponese, ma è tutt'altro. Si scrive Deborah questo, io poi vengo a prenderla. Roberta, e poi Roberta da Firenze, buongiorno. Buongiorno, io volevo sapere, ho 50 anni, non ho mai praticato yoga, però volevo iniziare e appunto ci sono talmente tanti tipi di yoga, mi chiedevo qual è il più adatto per iniziare questa pratica. Grazie Roberta. Allora Daniele, si fa e poi come si riconosce anche una buona scuola? Il più adatto è quello che è in linea con le nostre, diciamo, attitudini, le nostre tendenze e le nostre aspettative, quello che vorremmo da una pratica. Quello che cerchiamo in una pratica, l'aspetto filosofico, quello, diciamo, di esplorazione del campo energetico legato alla vita, oppure un aspetto più fisico, dinamico, di movimento o anche ricreativo, se vuoi, perché nei centri di yoga ci sono tante persone, in generale sono simpatiche, è bello frequentare un centro di yoga anche per quello. C'è gente che si pone delle domande. In generale, al di là degli stili praticati, si tratta di persone che si pongono degli interrogativi esistenziali, al di là poi della posizione, la tecnica e mica la tecnica. Quindi scegliere sono persone in cerca, diciamo così. Brava, ecco. Lo yoga è una ricerca, poi alcune persone utilizzano la ricerca in termini dinamici, altre si dirigono immediatamente verso un aspetto di meditazione, di concentrazione, altri cercano una mediazione fra questi due poli, però certamente lo yoga è ricerca. Però per andare a dare una mano con un aiuto alla nostra amica di Firenze, diamo delle opzioni, cioè se lei è una persona che cerca magari un equilibrio, vuole magari fare un percorso di conoscenza, esplorare un po' le emozioni, dare voce a quelle emozioni che sono anche un po' più, no, nascoste, bloccate, verso che tipi di yoga si deve indirizzare? Uno yoga classico, può cercare la dizione Hatha Yoga. Anche Kundalini Yoga, anche se il lavoro sul campo energetico nel Kundalini Yoga può non essere adatto a persone che invece desiderano un approccio più gentile, delicato, desiderano non smuovere nel profondo magari contenuti inconsci che pertengono a quella particolare vita, esistenza. Quindi direi uno yoga classico di questo tipo. A volte si trova anche la dizione Yin Yoga, oggi è una cosa moderna, Yin ha questo aspetto, diciamo, di gentilezza, introspezione, riflessione, quindi potrebbe identificare, però io invito a verificare la cosa presso il centro, una tipologia di yoga gentile. Invece chi vuole lavorare di più sul corpo, a parte quello che hai detto prima, di cui io mi sono già dimenticato, Ashtanga. Perché mi ricordo che ti stanga quello bello vigoroso, ecco, insomma, è una forma di yoga, esatto, una forma di yoga molto dinamica che può essere replicata anche da stili noti come power yoga o vinyasa, sono stili in genere, esatto, molto dinamici, che lavorano su sequenze, quindi diciamo che è una tipo di tradizione questa delineata in generale, dove non si sta fermi, ecco, se non con un'intensità. Ma posso chiedere qual è la posizione del guerriero? La posizione del guerriero è quella che ammazza, come no, ha tre varianti. In realtà quella più classica è una posizione che mima proprio quasi un affondo di uno spadaccino, perché i piedi, sì, c'è una buona divaricazione, sì, fra i piedi, c'è, certo, la gamba innanzi che è flessa, le braccia sono distese parallele a terra, certo, e nell'esecuzione proprio dalla stazione, diciamo con le gambe entrambe distese, si effettua una flessione ed è come entrare, certo, poi ci sono degli aggiustamenti a livello proprio delle gambe, dei glutei, dello sguardo, una rotazione che effettivamente può sembrare quasi un colpo di arti marziali, un'esecuzione di una tecnica marziale. Come mi spiace che gli ascoltatori non possano vedere Daniele mentre ce lo mostra, ce lo mima, il guerriero, e yoga. E dopo tutto questo yoga noi dobbiamo andare a scuola anche, alla scuola, sì, di risparmio, allora, quindi... Dobbiamo invitare di nuovo, yen, riprendiamo la coppia, Daniele Belloni e Giovanna Luini, prestissimo. Io vi invito a leggere anche i post di Daniele Belloni sul nostro Daily Lab, naturalmente chiediamo anche alla dottoressa Luini di regalarci qualche altra. Volentieri, vorrei chiedere la foto della posizione del guerriero sulla vostra pagina Facebook, mi sembra. Adesso guarda, chiamiamo Isotta e Marco e gliela facciamo fare subito, mentre si cimenta in questo esercizio. Anche nella vostra scuola ci sarà una lezione aperta in occasione del 21, allo spazio Scianti di Milano. Domenica mattina magari, dalle 10 alle 12. Questa giornata può essere quella utile per gli ascoltatori che sono alla ricerca della loro prima lezione yoga, di andare a fare qualche prova. No? Se volete conoscere Daniele Belloni, è lì. Volentieri. Grazie alla dottoressa Luini, a Daniele Belloni, e noi adesso... Che sono la campanella e non per gli esami di maturità, fronte, per la nostra scuola. Fronte rilassata, ombelico in movimento, voilà. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, lo sapete bene, è un tema che affrontiamo abbastanza ricorrentemente in vario modo a Cuore Denari, anche in altre trasmissioni. Non siamo più nella fase acuta della crisi finanziaria e bancaria di qualche anno fa, quella che veramente ci ha anche spaventato in un certo momento, però i rapporti conflittuali fra banche e consumatori rimangono ancora molto diffusi sul territorio, e parliamo proprio di questo oggi nel nostro appuntamento del giovedì. Investire informati. Allora, ci sono in questo periodo alcuni casi critici in Italia di banche che navigano in acque agitate, ce n'è anche qualcuna commissariata dalla Banca d'Italia. C'è poi il grande tema della trasformazione delle banche popolari in SPA, dopo la riforma varata dal governo lo scorso inverno. Ci sono alcune situazioni di gestione poco trasparente che stanno mettendo in crisi migliaia di correntisti. Il caso su cui oggi vorremmo fare un focus è quello di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenda. Anche queste due banche stanno accelerando sul piano di trasformazione in SPA, in particolar modo Veneto Banca, insieme ad altre 8, quindi sono 10 in tutto le banche che sono al centro di questo processo dopo la riforma messa in campo dal governo ad inizio anno. Queste due banche in particolar modo non permettono però ai propri clienti di smobilizzare i pacchetti azionari che hanno sottoscritto appunto attraverso i loro sportelli in passato. Non essendo società quotate, il processo di disinvestimento è già di per sé un pochino più articolato, ma la questione è che le azioni sono state pesantemente deprezzate, e non per avverse condizioni di mercato, ma perché così nei mesi passati è stato deciso dai vertici di queste banche. Su queste delicate situazioni c'è intanto il faro della Consob. Su Veneto Banca c'è anche un'indagine aperta della Procura di Roma. Ci sono state in queste settimane ispezioni della Banca d'Italia, ci sono diverse associazioni dei consumatori all'attacco, pronte a costituirsi parte offesa negli eventuali procedimenti per tutelare i risparmiatori azionisti. Insomma, c'è una situazione molto calda. Oggi noi ne parliamo con Marco Liera, un amico di Cuore Denari, lo ricorderete bene perché tante trasmissioni ha fatto con noi quando era a capo di Plus 24 del Sole 24 Ore. Oggi si occupa di formazione finanziaria con la società YouInvest, che ha lui stesso fondato, di cui oggi è partner, e che ha analizzato molto attentamente questa vicenda. Lo abbiamo già collegato con noi. Marco, buongiorno e ben ritrovato. Ciao Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ascoltatori sono già pronti in tanti, molti candidati ci sono stamattina ad intervenire in diretta su questa vicenda che vedo che ha già scaldato gli animi. 800 24 00 24, il numero verde che potete continuare a comporre se volete raccontarci se state vivendo questa situazione. C'è un ascoltatore al 349 238 6666 che mi segnala. Debbie, quindi mi chiama già molto amichevolmente. Le azioni delle POP non quotate non si riescono più a vendere da diversi anni. Il decreto di trasformazione in SPA non c'entra. C'entra però il fatto che questo decreto di trasformazione ha portato molte banche a decidere per il deprezzamento di queste azioni. Ci sono stati alcuni consigli di amministrazione molto caldi, tenuti sotto stretta osservazione in aprile, in particolar modo hanno riguardato proprio queste due banche, per cui non sono proprio d'accordo che non c'entri. Chiedo subito un commento a Marco su questo. Marco Liera. Ah, la decisione di deprezzare le azioni è avvenuta a seguito del combinato disposto di cambiamento di regole, quindi passaggio della vigilanza alla BCE, adozione di nuovi criteri più prudenziali di determinazione del patrimonio e di conseguenza aggiustamento del valore delle azioni a livelli che sono in linea con la rischiosità anche degli attivi di queste banche. Attivi di queste banche che sono diventati più rischiosi anche in ragione della congiuntura economica avversa. Io direi che questi due sono stati i principali fattori, congiuntura economica e cambiamento di regole. Apriamo la trasmissione, dopo aver sentito questo primo parere di Marco Liera, con un nostro ascoltatore. Chiamiamo Alfredo che, come stanno facendo molti altri amici di Radio 24 e molti lettori anche del Sole 24 Ore, continuano a denunciare questa situazione. Alfredo, intanto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Sto cercando di assumere la posizione del guerriero in posizione yoga. Diventa un po' difficile. È troppo esatto. Ma lei già esatto. So che sta cercando anche un pochino di tranquillizzarsi assumendo una posizione yoga prima di sintetizzarci il suo caso, nel quale probabilmente si ritroveranno molti altri ascoltatori. Allora, ci racconta. Sono assolutamente tranquillo. Azionista, mi raccomando l'ombelico. Mi raccomando l'ombelico, Alfredo. È da trovare. No, senta. Intanto saluto il dottor Liera. Buongiorno a tutti. Sono contento che ci sia perché è una persona che risponde sempre al cittadino e questa è una cosa importante. Benissimo. Cosa che non stanno facendo invece, secondo almeno le sue aspettative, la banca presso la quale lei ha sottoscritto questo pacchetto di azioni in passato e che vorrebbe disinvestire non riesce. Ci assolutamente racconta? Io velocemente cerco di essere sintetico, ma devo fare tutti i passaggi. Io ho sottoscritto delle azioni con Veneto Banca, quindi ho 900 azioni virtuali e faccio una premessa: tutto ciò che sto dicendo è assolutamente valutabile, assolutamente documentato e ne sono a conoscenza il direttore della filiale della banca dove sono cliente. Altro punto, al momento della sottoscrizione, queste azioni non sono mai state definite liquide, questa è una cosa fondamentale ed importante che voglio definire, ed è stato garantito un piano di evoluzione e di crescita che è stato documentato anche con dei plan di presentazione, perché il direttore della filiale che mi ha proposto l'acquisto di queste azioni è lo stesso direttore a cui io mi sono rivolto per sbloccarle, quindi questo per dare continuità al mio ragionamento. Vado avanti, io possiedo queste 900 azioni di Veneto Banca. A gennaio del 2015, per l'esattezza fra dicembre e gennaio del 2015, quindi in tempi non sospetti, mi reco nella filiale perché voglio sbloccare queste mie azioni. Dopo un tira e molla continuativo, dove chiaramente c'era qualcosa che non quadrava, finalmente a febbraio, agli inizi di febbraio, anche questo quindi in tempi non sospetti, il direttore della filiale mi fa firmare un modulo della banca dove si fa richiesta appunto di sbloccare queste azioni e quindi di rientrare nel mio possesso in maniera libera. Vorrei dire una cosa, cioè qui stiamo parlando del mio denaro, dei miei sacrifici, delle mie azioni, delle mie risorse, perché questo è fondamentale. Certo. Cioè, queste azioni che sono state congelate praticamente da febbraio sino ad aprile e mentre il direttore della filiale mi continuava a dire che era tutto a posto, che sarei rientrato perfettamente, che potevo procedere agli investimenti che avevo pianificato per mio conto, certo. No? Perché ognuno di noi poi decide nell'anno in corso che cosa deve, che cosa non deve fare, e ad un certo punto arriva il fantomatico giorno in cui ricevo una telefonata e mi si dice che queste azioni non possono essere più disinvestite e che bisogna aspettare. Alfredo, il famoso... dobbiamo andare al giornale radio, ha tempo di darci altri due minuti della sua giornata fra un po' dopo il giornale radio, perché così completiamo tutto il ragionamento. Linea al giornale radio. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore e Denari, il nostro spazio del giovedì con il mondo del risparmio. Investire informati. È una puntata un po' particolare per questo spazio, che ha l'obiettivo di renderci ogni settimana consumatori, risparmiatori un po' più consapevoli, e lo spazio di approfondimento di questa settimana è sulla vicenda che riguarda alcuni istituti bancari, in particolar modo Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e i loro azionisti. Queste due banche stanno trasformandosi in SPA, ma c'è un'altra vicenda che le riguarda, che viene sollevata da molti lettori del Sole 24 Ore e anche da molti ascoltatori di Radio 24. Molti clienti di queste banche sono anche azionisti di queste banche che non sono quotate, stanno chiedendo di disinvestire da queste azioni, ma le banche non permettono loro di farlo. E noi stavamo ascoltando, lo abbiamo brutalmente interrotto per dar spazio al giornale radio, la testimonianza di Alfredo, sottoscrittore di 900 azioni. Tra dicembre e gennaio, ci raccontava Alfredo, sintetizzo io, ha chiesto al direttore della sua banca, con il quale aveva fatto questo investimento, di chiudere questa operazione per sue necessità, che non deve certamente giustificare a nessuno. La banca ha detto no. Dopodiché questa banca, e Veneto Banca in questo caso, con il consiglio di amministrazione di aprile ha deprezzato del 23% il valore delle azioni in carico ad Alfredo, ma a molti altri anche clienti. Alfredo, oggi qual è la sua situazione? So che ha messo tutta la sua vicenda in mano ad un legale. Che cosa chiede e che risposte la banca le sta dando in questo momento? In questo momento la banca non mi sta dando alcuna risposta, perché rientro innanzitutto di nuovo, buongiorno, perché io ho ricevuto una lettera dove entro il 31 maggio dovevo decidere di annullare quella che era stata la mia richiesta precedente ed eventualmente di propormi per avere queste azioni al nuovo prezzo. E io a questo punto, considerando che anche su queste nuove azioni, su questo nuovo prezzo, ci sono moltissimi dubbi e molte difficoltà, come tutti noi sappiamo, come tutti noi leggiamo, ho dato azione legale, quindi ho messo tutto in mano al mio avvocato, alla mia avvocatessa, e alla quale ho fatto una domanda chiarissima, cioè io non sono un legale, quindi quello che mi interessa è capire un poco se in uno stato di diritto come quello che noi viviamo è lecito, quindi non entro in discorsi che non mi appartengono, io non faccio l'avvocato, è lecito che le proprie azioni vengano congelate, vengano messe in cassaforte, e io non posso adire alle mie azioni, non posso gestire il mio capitale. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, vorrei capire per quale motivo c'è una comunicazione disarticolata fra i vertici e la base, cioè in filiale mi dicono una cosa, i vertici invece, che sono a conoscenza di tutti questi episodi, non rispondono, non dicono niente. Cioè io dovevo ricevere, come da richiesta del modulo della banca stessa, il corrispettivo delle azioni a febbraio, invece ho ricevuto una lettera in cui mi si diceva che questo non era più possibile. Questo è gravissimo, anche perché con la banca c'è un rapporto di affidabilità, no? Di coerenza, e quindi nel momento in cui viene meno l'affidabilità, viene meno il rapporto vero fra il cliente e la banca stessa. Quindi mi chiedo anche dal punto di vista della dignità di cittadino, della dignità morale, ma non è retorica, che è proprio la verità, no? Cioè, ma è possibile che noi dobbiamo essere assoggettati a situazioni di questo tipo? E soltanto ieri, dopo aver parlato precedentemente con un capo area, no? Che mi ha convocato nella mia filiale precedentemente, in cui mi ha passato tutta la sua solidarietà, ma non mi ha trovato una soluzione, e soltanto ieri io ricevo una telefonata per un presunto appuntamento con un direttore no, da tenere il 2 di luglio, no, in un non ben articolato e identificato istituto. Cioè, io sono veramente inebettito di fronte a questa situazione, ed è questo che voglio porre all'attenzione anche del dottor Liera. Cioè, certo, indipendentemente dalle grandi strategie aziendali, dalle grandi strategie, cioè dalla ricerca di trovare delle soluzioni, tutto questo non può avvenire sulla pelle di noi clienti, che abbiamo bisogno, certo, dei nostri denari, delle nostre azioni per portare avanti la nostra vita quotidiana. Quindi, Alfredo, anche... grazie per la sua testimonianza accurata, per la chiarezza con cui ci ha ricostruito tutti i passaggi di questa vicenda, perché siamo certi che in molti si siano riconosciuti in situazioni simili. Peraltro ha toccato anche dei passaggi fondamentali. Ho chiesto il disinvestimento in momenti non sospetti, quando non c'era nessun processo di trasformazione, quando, diciamo, c'era Marco Liera, attorno a te, il nostro consulente di questa mattina per questa vicenda, quando ancora si parlava magari un po' meno rispetto ad ora dei requisiti patrimoniali molto rigidi chiesti anche dalla Banca Centrale Europea per fare in modo che si costruisse l'unione bancaria di questo continente. C'è anche un'altra questione delicata che pongo, è che questi pacchetti di azioni che sono posseduti da clienti, correntisti e famiglie spesso sono stati sottoscritti, passatemi il termine, non proprio liberamente, ma spesso in cambio dell'ottenimento di un mutuo, di un fido. Sono delle prassi bancarie abbastanza note in cui si verifica che una persona chiede un prestito o un fido, la banca dice sì, io te lo concedo, ti faccio anche delle buone condizioni, ma tu contestualmente sottoscrivi le mie azioni al prezzo che dico io e con il silenzio totale sulle eventuali modalità di disinvestimento. Ecco, per chiamarlo in un termine. Ho capito bene? Sì, diciamo che è così. Marco Liera, chiamiamolo come vogliamo, diciamo che si parla di rapporto fiduciario qua con queste banche, sono le popolari diffuse sul territorio, molto attaccate anche al territorio, però perché questo caso scoppia così violentemente proprio adesso? Per una serie di condizioni che sono cambiate, e tra queste, come ho detto prima, la più importante è il cambiamento delle regole sulla vigilanza bancaria. Devo dire che in passato essere soci delle banche popolari ha sempre comportato dei vantaggi per i clienti soci, e questo è un po' il cambiamento che dovrebbe realizzarsi con la trasformazione delle banche popolari in società per azioni, magari società che banche che si fonderanno tra di loro e le non quotate che si quoteranno, perché si uscirà da questa situazione un po' ambigua in cui per, diciamo, essere cliente di una banca e godere di certe condizioni ti si chiede anche di essere socio. Ma una banca non è la bocciofila, una banca non è un centro sportivo. Se a un cliente si chiede di diventare socio, si entra nel merito delle sue decisioni di investimento, di portafoglio. Quindi questo è un ambito molto molto molto delicato, perché se un risparmiatore ha le caratteristiche per poter avere una quota di investimenti azionari nel suo portafoglio, la strada maestra è quella di realizzare questo investimento tramite fondi comuni azionari o ETF azionari, quindi strumenti diversificati, non l'azione di quella banca. La quale azione di quella banca nei decenni passati è vero che ha generato un profilo rischio rendimento assolutamente positivo, certo, perché non aveva rischiosità, il prezzo saliva sempre, ogni anno il consiglio di amministrazione aumentava, esatto, di un quid il valore di quel titolo, ma come tutte le favole prima o poi finisce. È mancata la consapevolezza, qui probabilmente perché non è stata spiegata a fondo questa cosa, io so che in passato alcune di queste banche nella rendicontazione dei clienti inserivano queste azioni delle banche popolari, sto dicendo, negli investimenti a basso rischio. È chiaro che questo è molto fuorviante, perché un'azione di una banca popolare è pur sempre un'azione e quindi è uno strumento rischioso, certo, che può essere sottoscritto o comprato in presenza di determinate condizioni del cliente. Allora, tra l'altro, io coglierei anche oggi l'occasione per fare il domandone ai nostri ascoltatori, tanto per così verificare se hanno prestato attenzione alla prima parte del nostro programma. Direi che posso farlo, guarda. così possiamo anche oggi aprire la biblioteca di Cuore e Denari, la nostra libreria, mettervi a disposizione qualcuno dei nostri volumi. Magari ne vado a ripescare qualcuno scritto da Marco Liera quando lavorava con noi al Sole 24 Ore. Allora, se avete fatto attenzione alla prima parte del programma, vi abbiamo dato una cifra. Quante sono le banche popolari che devono trasformarsi in SPA dopo la riforma messa in campo dal governo ad inizio anno? Per rispondere 800 24 00 24, ma oggi siamo generosi, anche se ci scrivete al 349 238 6666, magari accontentiamo un po'. Arrivano i libri. Preferiamo però il numero verde. Marco, tra l'altro, prima di sentire Luisa da Treviso e Ugo da Vicenza, vorrei chiederti: Veneto Banca nel consiglio di amministrazione del 9 aprile ha proposto la riduzione del valore delle azioni, come nel caso di Alfredo che abbiamo sentito prima, da 39,50 euro a 30,50 euro, un calo di circa il 23%, la stessa percentuale di deprezzamento che ha deciso il consiglio di amministrazione della Popolare di Vicenza l'11 aprile, passata da 62,50 euro a 48 euro. Quindi chi aveva pacchetti di azioni sottoscritti a quei vecchi prezzi oggi se li trova appunto decurtati di circa il 23%. Quando queste banche si trasformeranno in SPA e dovranno quotarsi in borsa, che cosa è possibile che accada ulteriormente a questi prezzi? Cosa potranno trovarsi in mano gli azionisti secondo la vecchia modalità di sottoscrizione di investimento, appunto di questi investimenti? Beh, è possibile che il valore di queste azioni trattate sotto quelle condizioni che tu stai descrivendo in un mercato regolamentato, la borsa, si allineerà alle valutazioni che il mercato attribuisce a banche popolari o comunque banche di dimensioni analoghe già quotate. Se il Banco Popolare, faccio un esempio, l'ho guardato stamattina, istituto quotato in borsa, ha un rapporto tra prezzo e patrimonio netto pari a 0,65, quindi il valore di borsa della banca è pari al 65% del patrimonio netto, è chiaro che magari, diciamo, le popolari che dopo fusioni e trasformazioni in SPA si quoteranno in borsa magari non varranno esattamente il 65%, però quello che non succederà più è che il loro valore sarà pari a 1,5 volte o addirittura 2 volte, certo, il patrimonio netto, perché il mercato cerca di allineare le valutazioni rispetto a banche di analoghe dimensioni già quotate da tempo, con analoghe dimensioni, analoghe caratteristiche, mercati simili, certo, e così via. E poi, diciamo, non è che da escludere che ci siano ulteriori riduzioni una volta che queste, infatti, banche saranno quotate. Prima cosa, e poi consideriamo anche il peso come azionista, no? Nell'attività bancaria, quando si era soci della banca popolare secondo le vecchie modalità, si partecipava alle assemblee, si aveva con l'esercizio del voto capitario voce in capitolo, diciamo, in maniera diversa rispetto a quella che ci sarà in futuro quando, diventando SPA, magari potranno entrare nel capitale grandi soci, grandi azionisti. Sicuramente i piccoli azionisti spariranno un pochino anche da questo punto di vista, Marco. Ma come sì, tu segnali nei tuoi pezzi, è un mondo antico che va a esaurirsi, e non è tra l'altro detto, Deborah, che il mondo nuovo sia necessariamente migliore di quello passato, perché insisto sul fatto che per decenni comunque queste banche popolari, oppure cito anche il caso delle BCC, hanno effettivamente svolto una ottima azione di sostegno, sì, al territorio. È chiaro che negli ultimi anni è mancata la spinta riformatrice dall'interno che potesse consentire a queste banche di avere innanzitutto un rapporto diverso con i suoi soci clienti, un rapporto più trasparente, e poi anche una politica del credito forse più, anche questa più lineare, meno esposta a consorterie e amicizie locali, perché la territorialità è un valore fin tanto che non diventa il pretesto per prestare soldi solo agli amici o agli amici degli amici. È chiaro che stiamo parlando comunque di banche di grandi dimensioni, perché il fatto che siano popolari poi comunque non ha impedito a queste banche di avere delle dimensioni particolarmente interessanti. Però la risposta alla fine del legislatore è stata quella di imporre a queste banche il cambiamento che esse stesse non erano state in grado di realizzare da, certo, sole. Allora, andiamo per, visto che stiamo già andando verso la conclusione, vorrei concludere con qualche informazione concreta per i nostri amici che in questo momento navigano in queste circostanze non piacevoli, quindi prenderei uno dietro l'altro i due ascoltatori che si erano candidati. Nicoletta. Precedenza Luisa che ci chiama dalla provincia di Treviso, benvenuta e buongiorno. Sì, buongiorno. Ho seguito tutta la trasmissione, molto interessanti, cose che già sapevo, altre purtroppo le ultime, queste qui del signor Marco, che sono molto brutte per me, avendo io una notevole quantità di azioni della Veneto Banca acquistate in 30 anni di risparmi, di così. Il 13 novembre del 2013 ho messo in vendita quando erano a 40,25. Da quella data ad oggi non sono state assolutamente vendute, con varie scuse. Addirittura quel giorno mi ricordo mi disse: signora, se ne pentirà di aver messo in vendita le sue azioni. Ma io dovevo acquistare un piccolo locale per mio figlio, ma ognuno con i propri soldi non deve neanche giustificare l'uso che ne deve fare. Io non ho parole. Anche per impegnarmi con l'immobiliare dovevo per forza far pressione sulla banca dicendo: state attenti che poi io pagherò penali su questa faccenda, eccetera. Oltretutto la beffa che io ho fatto un affrancamento sempre sul suggerimento di questi incompetenti delle filiali, l'affrancamento l'ho fatto sul valore dell'azione di 40,25. Chiaro. Perciò ho speso già allora 6.300 euro. Allora, sommando quello che ho perso da quella 40,25 a quello che oggi vale, e ahimè non so se varrà anche prossimamente quel prezzo, io ho perso qualcosa come 69.000 euro e altri 6.300 di affrancamento. Lei capisce che a questo punto potrò comprare forse la cuccia del cane. Ecco, Luisa, ferma lì, guardi, devo dare la parola ad Ugo dalla provincia di Vicenza, poi il quizzettone e la chiusura. Ci ritornerò però su questo argomento, perché siete stati così in tanti a chiamarci, a scriverci, che è giusto che venga mantenuto un faro costantemente puntato su queste vicende. Ugo da Vicenza, rapidissimo se ce la fa, grazie. Buongiorno, sì, cercherò di essere davvero molto rapido. Allora, la mia situazione è analoga a quella delle due persone che hanno parlato prima di me. Banca Popolare di Vicenza, sono detentore assieme a mia moglie da una vita di 3.724 azioni, quindi non solo sono caduto nella nella variazione da 62,5 a 48, ma la cosa che mi colpisce di più è che queste azioni sono a tutti gli effetti illiquide. Ugo, fermiamoci qua, non ho tempo. Maurizio da Lucca, non riesco a sentirlo, ci ha dato la risposta esatta al quizzettone, sono 10 le banche che si trasformeranno in SPA. Marco Liera, conclusioni a te in 30 secondi, con la promessa di riportarti presto su questo tema, magari addirittura anche la settimana prossima. Sì, Marco. Pronto? Sì, Marco Liera. Marco dov'è? È caduto? Eccoci qua. Marco, una rapida conclusione in 30 secondi, grazie. Sì, le azioni sono investimenti rischiosi, anche se sono azioni della banca vicina a casa, quindi possono essere comprate soltanto in presenza di una determinata propensione al rischio. La strada maestra per avere una quota di investimenti azionari in portafoglio è quella dei fondi comuni azionari e degli ETF azionari, possibilmente con l'aiuto di una buona consulenza. Però noi adesso magari giovedì ci ritorniamo, chiamiamo anche le associazioni dei consumatori che invece stanno cercando di seguire gli azionisti di queste banche per capire che cosa stanno facendo per aiutarli. Quindi, oltre a questo suggerimento che è fondamentale, ci ritorniamo giovedì, magari richiamiamo Marco Liera e qualche associazione dei consumatori. Intanto grazie a tutti, abbiamo terminato, a domani. A domani. Cuore e denari.